212. Castagnole prima. Questo piatto particolare alle Romagne, specialmente di carnevale, è a dir velo di genere non troppo fine, ma può piacere. Intridete sulla spianatoia una pasta soda con farina, due uova, una cucchiaiata di fumetto, odore di scorza di limone e sale quanto basta. Lavoratela molto e con forza con le mani, come fareste del pane comune, facendole a poco assorbire una cucchiaiata di olio fine. Per ultimo, tiratela a bastoncini, tagliateli a pezzetti del volume di una noce e gettateli subito in padella a lento fuoco, dimenandola continuamente. Cotte che siano le castagnole, spolverizzatele di zucchero a velo e servitele ghiacce, che sono migliori che calde. Se invece di fumetto vi servirete di cognac o di acquavite, il che sembra lo stesso, vi prevengo che non otterrete il medesimo effetto e che rigonfieranno poco.